A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cammino marcio di questa zanzarina di merda, e ma quante puntate, poi ma lo volete finire? Figlia su una vacanza, un mal di gola, una febbre, stai zitto, chiudi bottega. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. È una cosa indegna la sua trasmissione. Vorrei iniziare la trasmissione di oggi, caro David, un saluto a tutto il popolo della zanzara in collegamento dai taxi, dagli autobus, dalle macchine, dalle case, dalle camere da letto, dalle cucine, dai tinelli, eccetera, eccetera. Vorrei iniziare con un applauso, l'applauso a un uomo, a una persona che sta soffrendo terribilmente. È una cosa un po' nuova per noi che diciamo siamo dei grandi figli di puttana, ce ne fottiamo del dolore delle persone, almeno io. Però quest'uomo si chiama Hermes Mattielli ed è insomma un signore che ha preso più di 5 anni di carcere, praticamente alle pezze al culo, 135.000 euro da pagare, non li pagherà mai, a due signori albanesi che erano andati a rubare e lui ha sparato e li ha feriti. Hermes Mattielli si è sentito male, forse per lo stress di questi giorni, ed è ricoverato in ospedale. Non è, dicono, in pericolo di vita. Comunque, Mattielli, amico mio. Lei in che condizioni è dal punto di vista economico? Nella merda, sono disoccupato grazie alla magistratura e cerco di sopravvivere. Io avevo un'attività, me l'hanno fatta chiudere e... Pensa di essere vittima di una persecuzione? Sì. Applausi a Hermes Mattielli, rigattiere di 62 anni che sparò a due nomadi entrati nella sua proprietà, condannato a 5 anni di carcere a risarcire due persone colpite. Applausi, basta con questa storia. Speriamo che si è stato stressato anche da questa vicenda, diciamo la verità, è stato stressato anche da questa vicenda ed è andato in sala di rianimazione, diciamola tutta, dai, su. Un poveraccio di 62 anni costretto a subire una tortura di questo tipo, un calvario giudiziario, 5 anni di galera per avere sparato a due che volevano rubare. Sai, Parenzo, che quando ero piccolo la mia famiglia, molto legata al Vaticano, mi portava a comprare delle cose nella farmacia e anche nel supermercato Vaticano. Bravi, privilegiati. Forse sì, erano privilegiati. Sono poche le famiglie che hanno la possibilità di avere le tessere per comprare. Non sono poche. Il duty free del Vaticano, che è più economico di quello di Dubai, praticamente. Ecco, crescendo, mi sono fatto qualche domanda. Ma perché in Vaticano bisogna vendere la benzina, le sigarette, i vestiti e altre cose tax free? Lo sai quanto incassa il Vaticano da questa roba? Sì, 60 milioni l'anno. Da Via Crucis, da Nuzzi. Sì, ma anche da Fittibaldi, guarda, da questi libri, 60 milioni l'anno. Sai quanto valgono le casse del Vaticano? 4 miliardi di euro. Dentro però non è che ci stanno i rifugiati, amico mio, non ci sono i profughi, non ci sono gli immigrati dentro queste case. Spesso ci sono privilegiati, raccomandati, io no, mai preso una casa dal Vaticano. Privilegiati, raccomandati, VIP, eccetera, eccetera. però Giletti, che noi abbiamo difeso, non è che può sbracare, eh? Non può sbracare a cantare O Sole Mio come ha fatto in una radio napoletana, non so dove. Canta O Sole Mio, amico mio. Alla guerra come alla guerra. Se De Magistris ti querela, se De Magistris ti vuole portare in tribunale e ti vuole chiedere follia, 10 milioni di euro per avere detto la pura verità su Napoli, cioè semplicemente che ci sono delle zone degradate, semplicemente che in ogni angolo, in molti vicoli fuori dalla stazione c'è la spazzatura, cioè per avere detto l'ovvio, per avere detto l'ovvio, beh, tu devi andare alla guerra, non cantare O Sole Mio alla radio. Vai, vai, Massimo. Andiamo insieme, dai. Malato sola. Canta lui. Più bella che O Sole Mio. Vai, un pezzo e un pezzo tu. Stavo in fronte a te. Vai insieme. O Sole, O Sole Mio. Massimo, il finale lo fai tu, vai. Sta in fronte a te. Vai Massimo, vai al Massimo. Vai Massimo, aspettiamo te. A te. Applausi. A te, grande Massimo Giletti. De Magistris, sentiamo De Magistris che dice che non va da Giletti perché l'ha querelato. Sentite, noi con Giletti non abbiamo più da interloquire, abbiamo fatto una querela, ho detto tutto, direbbe Totò. Aspettiamo la risposta del presidente della RAI. Come? Chi sta milionaria, insomma, chi sta alla RAI? Come poco? No, non lo so, abbiamo fatto l'avvocatura, ha fatto questa valutazione, noi ci affidiamo agli avvocati. Siccome siamo consapevoli che Napoli deve essere ancora più pulita di come l'abbiamo pulita, quei 10 milioni Napoli sarà più pulita anche grazie a Giletti. Il signor Giletti è lautamente pagato con i soldi dei contribuenti, dovrebbe essere un arbitro imparziale, non lo è sceso in campo, si è messo la palla, diciamo, sotto al braccio e ha iniziato a giocare a pallone. A noi questa cosa non piace, i napoletani reagiscono. Ma questi vogliono dei soldatini alla televisione, o alla radio, vogliono gente che si piega, vogliono gente che non dice quello che pensa, vogliono gente così che li fa parlare in libertà. Cioè, che li fa parlare senza interrompere, vogliono gente che non pensa. Cioè, tu quando vai a Napoli, ti fai un'idea, no? Hai un'idea di quello che accade. Non la devi dire se sei. Non la devi dire se sei conduttore televisivo, se sei conduttore alla radio. Non la devi dire secondo De Magistris, capito? Non la devi dire. Alcune voci di signori rom. I quali, credo in occasione del processo, se non sbaglio, in occasione del processo per Mafia Capitale, forse pizzicati di fronte al tribunale, cose di questo tipo, dicono: vogliamo Buzzi e Carminati. Senti, senti. Noi vogliamo Buzzi e Carminati che escono fuori. Sì, io vado per lui. Ma come mai questi signori rom vogliono Buzzi e Carminati, eh? Ma vai a saperlo, facevano affari con loro magari, che ne sai? Criminali sono criminali, eh? Senti, senti Castelromano, quegli altri che dicono che Castelromano è come Birkenau, sbagliano, dicono come i campi di concentramento. È un ghetto sociale. Sembra Birkenau ad Auschwitz, però anziché farci morire dentro il camera a gas, ci fanno morire isolati dalla città e dalle persone. Dicono viviamo con i ratti e la spazzatura. A parte che vivere con i ratti e la spazzatura non è obbligatorio. Cioè, se te danno un campo rom, lo tratti bene il campo rom, no? Cerchi di attrezzarlo, cerchi di... Nessuno ti obbliga a lordarlo. No, ma appunto, cioè, che significa vivere con i ratti e la spazzatura? Cioè, i ratti e la spazzatura ci sono se tu non pulisci, se tu, e soprattutto la colpa di chi è? Cioè, perché non te vai a cercare a casa da solo? Cioè, perché uno dice viviamo con i ratti e la spazzatura, non ci danno Castelromano e è come i campi di concentramento, ma chi ti ha chiesto di andare là? Vai a cercare casa come una persona qualunque, come una famiglia qualunque italiana. Difficile qua, vivi con i ratti, con no, topi, topolini, ratti, quelli grandi, vivi con la spazzatura che non ce la fai più, c'era la spazzatura che ti veniva dall'angolo fino a un altro angolo che non potevi respirare, maggior parte dei bambini si sono ammalati di apatite, di scabbia. Ma Vatti a cercare casa come tutti gli italiani, signora Rom, vai a cercarti casa, non aspettarti soldi dagli altri, dal comune. Se sei italiana e sicuramente una cittadina italiana, cercati casa sul giornale, sull'elenco, sugli annunci, da un'agenzia, e se non te la danno, vestiti bene, pulisciti, se sei sporca ovviamente, no? Presentati in modo decente, eccetera, eccetera. Trovati un lavoro, eccetera. Se non te lo trovi, amica mia, non puoi pretendere che te lo dia lo Stato il lavoro, è la casa. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, Parenzo, devi sapere che Vladimir Luxuria ha dato dei soldi alla fondazione del Bambin Gesù. Almeno così leggo. Vladimir? Salve. Ciao, ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, ma è vero che ha dato dei soldi pure te al Bambin Gesù? Allora, io ho partecipato a una trasmissione televisiva a maggio che si chiama Caduta Libera. Sì. E ho vinto in questa trasmissione, rispondendo a delle domande, 30.000 euro. Sì. E potevo scegliere io a chi destinare questi soldi. E ho deciso di destinarli, per motivi miei privati, all'ospedale Bambin Gesù. Io anche prima ho dato dei soldi in beneficenza, anche per esempio c'era una trasmissione in cui ho dato dei soldi all'UNICEF. Pochi giorni dopo mi hanno subito chiamata per ringraziarmi dall'UNICEF, così come anche da altre associazioni. Sì, sì, sì. Questa volta non mi hanno chiamata, per carità, non è che uno dà i soldi per sentirsi dire grazie. Sì, forse, da qualcuno, ma forse perché... manco lo sapevano, non lo sapevano secondo te che gli avevi dato. Ma insomma, l'ho detto in televisione, quando Gerry Scotti mi ha chiesto a chi do i soldi, ho detto al Bambin Gesù, quindi sì, insomma è una trasmissione sì, seguita da milioni di persone. Comunque facciamo finta che non hanno saputo niente, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Però insomma mi era sembrato strano, dico, ma ho detto non è che perché c'è il pregiudizio, perché è un istituto religioso che insomma. Però ho detto, vabbè, l'importante è che io li ho dati e che ci siano dei bambini che possano soffrire di lettini se stanno male, no? E di dottori che sono bravissimi. Ma ora, quanti soldi erano? 30.000? L'hai dati tutti alla Fondazione del Bambin Gesù? Tutti, tutti. 30.000 euro. 30.000 euro. Allora, io leggo adesso dalla stampa che secondo questo libro di Fittipaldi I soldi sono andati, invece di andare a finire i bambini malati, adesso io non sono andati a finire da qualche altra parte, per la ristrutturazione dell'attico. Per la ristrutturazione dell'attico di Bertone. Ridatemi i soldi, mi girano le palle, ecco, che guarda, hai? Perché adesso che ritorno che occhi, perché mo ritorno proprio uomo, non me ne frega un cazzo. Perché mi incazzo sul serio, perché dico, se uno dà i soldi perché vuole che i bambini possano essere curati, l'idea che qualche merda, scusami il termine, usi questi soldi per ristrutturarsi un attico, mi fa girare davvero le palle. Perché non è solo questo caso qui, perché il danno peggiore che fanno questi è che adesso la gente, tutti, non si fideranno più delle associazioni, dei soldi in beneficenza, perché diranno a chissà chi hanno arricchire. E dato che questi ci fanno la morale a noi, sui bambini e sulle cose, eccetera. Scusami, non ho capito, Vladimir. Quindi adesso potresti richiedere quei soldi a Tarcisio Bertone, che fai? Mettiamo che sia andato così. Allora, io intanto ho telefonato alla Endemol, perché era la produzione Endemol, ho chiesto, scusate, io voglio sapere dove sono finiti questi soldi, perché mi devo mettere almeno l'anima in pace. Loro? Perché... ha ragione Vladimir, scusa, uno dà 30.000 attraverso la società di produzione e fa arrivare questi soldi a una fondazione. Ma che ne sa la società di produzione? No, lo sa, ma va, andasse a controllare i soldi dove vengono dati. Scusa, andassero a controllare, che può farlo Vladimir, non mica è Sherlock Holmes. Cioè, uno dà questi soldi per beneficenza ai bambini, vince un reality, una trasmissione, quello che è. Dà i soldi perché siano impiegati per i bambini e si viene a scoprire, poi ovviamente verificheremo tutto quanto, che questi soldi sarebbero stati utilizzati per la ristrutturazione dell'attico di un cardinale di oltre 400 metri quadri. Ma uno li girano i cosiddetti cabasisi, io dico i coglioni, cabasisi in siciliano, i coglioni, che Vladimir ancora ha? Io penso di sì. Cioè, per cui sì, capisco. Anche se non ce l'avessi me li ritirano fuori, guarda, veramente, perché, ripeto, io ho tutto il diritto di sapere dove sono andati a finire questi soldi. Cioè, ho tutto il diritto. E se sono andati per la ristrutturazione di quell'attico, ridatemeli. Cioè, No, non a me, ridateli all'ospedale, al Bambin Gesù. Perché sì. Io, guarda, ho una mia amica che ha un bambino lì ricoverato da sì. più di un anno. Sì. So bene com'è la situazione. Sì. E questa è la cosa peggiore che possono fare. La cosa peggiore. Ma Bertone come lo giudichi te, come personaggio? Guarda, se è vero che i soldi che dovevano andare per i bambini malati li ha usati per un attico, sì, sì. questa sì che è una sconfitta per l'umanità, altro che i matrimoni. Cioè andrebbe, che andrebbe fatto? Che andrebbe fatto secondo te? Ma io credo che vada proprio processato. Se una cosa ha fatto un reato deve andare processato. Vabbè, questo, cioè, questo sono soldi. Sono soldi che sono stati rubati. Il problema è che uno. Cioè, che questo uno... altro che il comandamento dice non rubare, questi rubano. Peggio ancora, rubano da soldi destinati ai bambini malati. Cioè, io non lo so se questa è una cosa demoniaca. Ma secondo diabolica. Te dopo questo scandalo la Chiesa può finire? Ma non deve finire la Chiesa. Ma io me lo auguro invece. No, devono finire i ladri, devono finire quelli che rubano i soldi ovunque. Questo io non lo so, guarda, veramente sto Papa come ce la farà, se riuscirà a fare pulizia, se riuscirà a fare trasparenza. Io voglio ringraziare quelli che hanno dato le carte per questi libri. Ah, tu dici altro che arrestati. Dici, ma che questi vanno ringraziati, perché... Basta hanno con scoperchiato l'ipocrisia. Finta che non ci sia niente. Questi vanno ringraziati. Grazie che ce l'avete detto. Grazie agli scrittori che hanno scritto sti libri. Perché in Vaticano va sempre bell'ipocrisia, no? Certo. Le cose si fanno, ci sono i gay, ci sappiamo in Vaticano, però non si deve sapere. Quindi se Ciaramza lo dice, tutti addosso a Ciaramza. Se ci stanno le ruberie e qualcuno lo dice, ammanettiamo chi ha dato le carte. Invece di ammanettare chi ha dato le carte, ammanettiamo Bertone, ammanettiamo quelli che si sono fregati i soldi. Ma però scusami, chiudiamola pure sta chiesa. Ma io non ne posso più di questa chiesa qua, è piena di ipocrisie, di follie. Ma che serve? Come dire, chiudiamo, aboliamo il calcio perché ci stanno i violenti. Deve essere tolto il marcio e basta. Chiudo gli ospedali perché all'ospedale ruba. Ritorniamo alla chiesa spirituale, non alla chiesa dei banchieri. Almeno il Vaticano, chiudiamolo. Chiudiamo baracche e burattini sull'istituzione. Cioè, torniamo alla chiesa povera. No, io invece dovrei. Ma poi chi fa una donazione, secondo me è un coglione, te lo dico, chi fa una donazione senza controllare dove finiscano i soldi è un coglione. Ma come fai a essere, cioè, io come fai a controllare? E non lo devi dare alla Fondazione Bambigia, non li devi dare alla Fondazione, li devi dare a un prete che conosci, che li usa un secondo dopo, che sai dove li usa. Non bisogna darli a queste fondazioni che non sai dove finiscono i soldi. Io non do un euro perché non riesco a controllare dove finiscono i soldi. Se lo do a uno per strada senza una gamba, a parte che potrebbe essere finto, insomma, cioè almeno so che gli do un euro e quello se mangia un panino. Ma se li do alla Fondazione Bambin Gesù, ma che ne so dove finiscono sti quattrini. Senti, a proposito, però, al di là della chiesa, ho letto che Malgioglio ha detto che tu fai una televisione da guardoni. Che cos'è che ha detto, signor Malgioglio? Ma non lo so. Sì, ti giuro che tutti quei cosi de fuori là, che fai una televisione da guardoni. Ma Cristiano Malgioglio invece dovrebbe guardarla la mia trasmissione, così ne vede uno che mi sa che secondo me non ne vede da parecchio tempo. Ah, tu dici che no. Sì, quando uno è un po' acidella, secondo me vuol dire che è un po' di tempo che io non mi permetterei mai di dire che chi guarda il Grande Fratello è uno spione. Ognuno guarda quello che cavolo gli pare, ragazzi, rispettiamo la signora Malgioglia. Ha incontrato una volta in treno Parenzo, lo chiamava zia, la mia zia davanti alla figlia, quella era sconvolta. La zia era sconvolta, la bambina. No, mi ha chiesto semplicemente, dice, ma non mi sembra la zia lei, solo questo io ho spiegato. Va bene. La zia è la Malgioglia, ecco. Va bene, Vladimir, a presto, ciao. Salve. Ciao. Ragazzi, ci sentiamo dopo il GR, 800 24 00 24. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Ti voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca. E che cos'è? Che è un bel ambiente? Ambiente di maiali. Parenzo, curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due, ciao. Allora ragazzi, vi leggo alcune frasi fondamentali di un libro, fondamentali. C'ho un po' di cultura, Parenzo, un po' di cultura finalmente. Bene, alziamo un po' il livello, Allora, non basta essere fra le braccia di una donna, bisogna essere anche fra le sue gambe. Non basta tradire una sola volta. L'adulterio, come la vita, è una severa, pur se piacevole, milizia. Niente più dell'esercizio perfeziona il vizio. Non c'è niente di più bello che rendere felice la donna di un altro. Ovviamente tu non sai chi è l'autore di queste meravigliose perle questo di saggezza. È il Vangelo secondo Cruciani? No, è il Vangelo secondo un altro che non lo so, vediamo chi è il primo che lo indovina. È la stessa persona che dice che un uomo deve avere almeno tre donne: la moglie, la geisha e l'amante. Ma io. È anche poco tre donne, La moglie, l'amante e quelle che ti sbatti per una sera e basta. Dunque sono innumerevoli, diciamo, no? Innumerevoli. Siamo ad alti livelli qua, Qualcuno chiede di chi è questa voce della senatrice Pezzopane. Paolo dalla provincia di Alessandria. Paolo 800 24 00. Vai, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai. Zanzaroni, senti, non ho potuto ascoltare la radio perché ero in un negozio. Ma volevo intervenire per la questione Giletti. Sì. Che due coglioni, cioè. Anche De Magistris, ma come cazzo fanno a evitare, cioè a negare proprio l'evidenza? No? Fanno come in Sicilia, no, qua la mafia non c'è, a Napoli no, la monnezza non c'è, nel campo rom, no, ma c'è la monnezza, ma non è colpa nostra. Mica hanno rotto i coglioni, cioè, ma detto da un sindaco che si lamenta, Giletti ha detto una palla, dai, diciamo, ha detto una palla Giletti. No, ma che palla, ha detto la verità, la pura verità, verità. Guarda, ma è bello che se la vogliono raccontare, io sono nato lì, sono cresciuto lì, ci vado, ogni tanto vado giù a trovare i parenti, è sempre uguale, come il cavolo fanno a dire, si offendono per ste minciate. Cioè tu come la consideri Napoli, hai dei parenti a Napoli? Certo. Allora come la consideri Napoli e i napoletani? Io Napoli la considero un disastro. E vabbè, quello anche i napoletani, parecchi napoletani. Poi? No, parecchi napoletani, calma, guarda che se poi vai a parlare in profondità, non devi tanto esagerare, a me dispiace perché, cavolo, ci sono nato, non vorrei parlare male della mia città, no? Però non posso non parlare male, cazzo, ogni volta che vado la vedo peggio, sempre peggio. Vabbè, sempre dunque? E sono degli ipocriti, cioè... ma li vedi anche quando poi vanno a votare che sono degli ipocriti, si rompono i coglioni, protebbi qua di là, poi chi vai a votare sempre gli stessi perché ti hanno trovato il posticino. Va bene, Paolo, grazie. Glauco Milano, vai. Pronto? Dimmi. Sì, ciao Crucia, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao a tutti, complimenti. Ciao, caro. Vai, non voglio complimenti, dai. No, infatti. Ciao, no, io volevo intervenire più che altro per quanto riguarda quel personaggio che si è fatto fotografare col leone ucciso in Africa, eccetera. Sì, no? Quel veterinario. Ma lo sapete che quel veterinario lì è stato praticamente massacrato, cioè viene minacciato di morte. Ieri l'abbiamo praticamente appreso dal suo studio di veterinario, ma gli arrivano messaggi di morte. Sì, vabbè, ma è chiaro che è una vergogna. Gli arrivano messaggi di morte. Ma perché ti stupisci? Lo sappiamo che ci sono alcuni, non c'è neanche da stupirsi purtroppo, perché sappiamo che ci sono alcuni pazzi scatenati che non vogliono neanche definire animalisti, perché ma sono dei coglioni e basta, no, dai, appunto, sono dei coglioni, non è che sono animalisti, è sbagliato dire che sono animali loro, cioè sono animali loro. No, perché dopo ti attaccano, perché se lo dici che il termine animale è usato, sono animali nel senso che non sono pensanti, perché pensano gli animali, pensano in modo diverso dagli uomini, dei potenziali criminali. Vabbè, Glauco, allora? No, quindi io premesso che non sono animalista, o meglio, rispetto gli animali, li amo, ma mangio la carne, quindi non è quello il discorso. Il fatto che non è stato sottolineato abbastanza il fatto che questa persona è un veterinario, cioè nel senso... Sì, ma quello è anche è un'altra delle questioni, ma qual è il problema se è un veterinario, scusami? No, più che altro, è una questione di coerenza, cioè nel senso... Cioè perché lui ovviamente dovrebbe salvare la vita degli animali e non ucciderli, è una contraddizione, dici? Ma la contraddizione è data dal fatto che quando uno diventa veterinario fa un giuramento che ho davanti agli occhi io in questo momento. Se voi andate a leggere su internet, sennò vi leggo le prime righe. Cioè, e qual è il giuramento? Dimmi. Entrando a far parte della professione... Ma tu sei un veterinario? No, io non sono un veterinario. Consapevole dell'importanza dell'atto che compio, prometto solennemente di dedicare le mie competenze, le mie capacità alla protezione della salute dell'uomo, alla cura, al benessere degli animali, favorendo il rispetto in quanto esseri senzienti, eccetera, eccetera, eccetera, conformemente ai principi etici del proprio. Allora? Insomma, voglio dire, è come un finanziere che evade le tasse, un poliziotto che ruba. Guarda, capisco che ci può essere una contraddizione tra il mestiere di... A parte io so che diversi veterinari sono anche dei cacciatori, ma chi ama gli animali? Esistono i cacciatori che amano gli animali, cioè sono convinto che ogni cacciatore ama gli animali. Sì, a suo modo, diciamo, è come quello che mena la moglie che dice sì. No, ma non dire cazzate, no, è molto, è molto diverso. È chiaro che il tuo è un paradosso. Va no, bene, ma secondo me amano ma molto. Non puoi dire che ami adesso. Non, sì, non mi interessa nulla. Ci io sono non sono molti, contro, ci ma sono... io non sono contro la caccia. No, non vado a caccia perché non sparo. Ci non sono molti, non moltissimi cacciatori che amano più la natura, amano molto di più la natura di quanto non l'amino gli animalisti. È come quello che mena la moglie e gli dice ma io ti amo. È una stronzata, è un paragone. Che non esiste. Uguale. È un paragone che non esiste. Uguale. Tant'è che lo stesso. Quando parlo io è Cassazione. Sì, vabbè, uguale. Lo stesso veterinario. Cassazione. Lo stesso parlo. Veterinario dice: dall'età di 6 anni ho sempre voluto, saputo di voler fare questo mestiere. Allo stesso tempo aspettavo il rientro dei cacciatori per vedere le loro prede. Cioè, voleva fare il veterinario e poi era affascinato dalla caccia. Ho questo istinto, anche se dopo aver ucciso c'è sempre un po' di amarezza. Non sono una mosca bianca. Conosco tanti colleghi che si trovano nella mia stessa situazione. Questa è la realtà. Giordano, Genova, vai. Ciao ragazzacci! Dimmi. Allora, senti, vi racconto una storiella. Io ho 59 anni, mia moglie ne ha 53. Sì. È del Molise. E sì, quando aveva 3 anni, sì, la bambina sparisce. Proprio sì, non si trova più la bambina, i nonni disperati. Il nonno cosa fa? Va a chiamare gli amici e si recano tutti al campo nomadi. Sì. Recuperano la bambina, staccano i nomadi e se ne tornano a casa. Che fanno i nomadi? I nonni, il nonno e i suoi amici zembano, gli danno un po' di botte ai nomadi. Sì, massacrano di botte i nomadi. E se ne tornano a casa e tutti vissero felici, contenti, compreso io e mia moglie. Dunque? È un po' nel DNA di questa gente fare i malandrini. La storia dei bambini rubati può darsi pure che ci fosse, ma è un po' superata. Non credo che rubino ancora i bambini in giro, insomma, no. Ma chi lo sa? E lei che cosa farebbe ai nomadi? Io? No, ma io vi ho voluto solo raccontare una storia. Vabbè, così. Ma avrai una tua cosa, no? Avrai una tua idea sui nomadi, cioè cacciarli via, no, smantellare i campi rom, bruciarli, no, che ne so. Ma io non voglio bruciare i campi rom, non vorrei che ci fosse ordine, cosa che in questo paese non si riesce a ottenere, ma non per colpa dei nomadi o per colpa dei delinquenti, per colpa di un sistema politico che fa cagare. Va bene, grazie, ho capito benissimo. Ciao, Alessandro, ragazzi. Torino, ciao. Alessandro, vai. Ciao ragazzi. siete fantastici. No, aspetta, fermo, fermo. Da dove cazzo trasmetti? Da dove cazzo chiami, Alessandro? Scusa. Ma no, ma c'hai viva voce. No. Amico mio, dai, su. Dai. Accidenti, che devo fare? Sei perfetto, vai. È perfetto, dai. Benissimo, allora. Dicevo che ogni sera ci date un sacco di argomenti, quindi siete proprio splendidi. L'imbarazzo della scelta, devo dire. Dai, una volta che litigo con mia moglie, perché vi ascolto anche in Dov'è tua moglie? Dov'è tua moglie? Mia moglie non c'è adesso, se no te la passavo, lo so che sei un vecchio marpione. Però ma no, ma non è per quello, è per conoscerla. Amico mio, non è che ci voglio, non è che voglio provarci con tua moglie in diretta. No, no, no. Anche, sì, dipende, com'è, una figlia o no? Certo. Come no, di più. Cioè, giovane o vecchia? Certo, se no. Dipende, che parametro hai? Over 40? Over 40, allora è buona, allora è buona, allora è buonissima. Ma vi tradite a vicenda o no? Assolutamente no. Ma no, ma scusa, ma hai letto quello che ti ho detto prima, le perle di saggezza che ho detto prima? Che no, non aspetta, sono mie, facciamo, Non sono mie. No, aspetta, lo facciamo a vicenda se siamo tutti e quattro insieme, però. Cioè, in che senso tutti e quattro insieme? È uno scambietto. In quel senso, sei scambista, Alessandro? Ma sono scambista, sono uno che... vuole provare un po' di tutto. Beh, qui siamo veramente al top. Lo allora, sapevo che era cioè, hai provato aspetta, io ho chiamato per dare solidarietà a Hermes. Guarda, vabbè, Hermes Mattielli, d'accordo. Hermes Mattielli. Fammelo dire. Dillo. A Hermes a mille, davvero, a mille, perché non devono venire a rompere i coglioni a casa mia. Ed è giusto che se... Poi sto poveraccio c'era anche l'aggravante, poverino, immagino che era anche canzonato da questi disgraziati. C'era non lo so, non era canzonato, diciamo, sì, era stato... No, ne approfittavano, dice tanto quello non può correre, posso immaginare, e loro ne approfittavano. Poveraccio, adesso è ricoverato in rianimazione, condanna oltre 5 anni di galera, davvero. 135.000 euro da ridare, che non ridarà mai. Solidarietà a mille. Vabbè, però torniamo al sodo, la solidarietà va bene, lo so, Mattielli. Lo sapevo. Ok, fai gli scambi tu con tua moglie. No, vabbè. Vabbè, ma non c'è niente di male. No, non c'è niente. Hai ragione. Ne abbiamo parlato spesso, però. Solo parlato per adesso. E io solo trovo, no, io trovo che sia una cosa che dà nuova linfa al rapporto. Davvero. Parenzo, hai capito? Parenzo, però. Ma non ho capito se questo signore qua è. Non contento. Sei della partita. Tu non sei. No, della... non sono io. No, dico che se questo signore qua è interessato a farsi vedere, diciamo così, uso un termine forse un po' forte per l'ora, ma insomma, montare la moglie da un altro. E lo diverte, io sono solo felice per lui, cioè non ho che. Ma cosa c'è di più straordinario di una cosa del genere? Ma io per voi sono felice se voi trovate giovamento in questo. Cosa c'è di più bello di una cosa del genere? Ma se vi piace così, per me va benissimo. Io non ho nessuno contro di voi, non avrò mai nulla perché non le detto. Ma scusa, la mia io libertà. Non ho capito, però, da Alessandro, ancora non ci ha detto bene se è una cosa che è rimasta per ora solamente virtuale nei pensieri, nelle citazioni del gioco di coppia, oppure è stata conclusa. Cioè, avete concluso una volta, due volte, poche volte, quante? Non lo racconterò mai in diretta Radio 24. Vabbè, ma allora non, gli amici di Radio 24 l'hanno restato. Se non lo racconti, significa che se non racconti, significa che qualche volta l'hai fatto. Ma guarda che non c'è niente di male, mica sei un terrorista. Non sei un terrorista, cioè non hai ucciso nessuno. Non sei come Totò Riina, non sei come dai su, vabbè Alessandro, non lo vuoi dire terrorista. C'è di peggio, sai, c'è di peggio, vuol dire, sai cos'è peggio? Ma com'è stato, con amici o sui siti internet? Essere ovvi come David Parenzo. Io a Parenzo davvero ogni anno vorrei dargli l'Oscar dell'ovvietà, perché lui potremmo fare non questo prende premio, mai sì. Posizioni, è sempre lì in mezzo, ecumenico, cioè prendi una cazzo di posizione da ogni tanto, pendola da una parte. No, su Banna Marchi e la Lega, su Banna Marchi e la Lega si esprime. Ciao Alessandro, sì, ciao, buoni scambi. Una cosa, ha ragione lo zio, siete due giornalisti oclocrati. Oclocrati, a proposito di Capanna, torna fra poco Capanna, aspettate. Grazie dello zio Capanna, ciao. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, tu, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Comunque lo sai la cosa stupenda? Che riusciamo a ospitare in questa trasmissione anche delle pubblicità negative. Anche delle pubblicità che dico basta con queste cazzate. Ah sì, questo ci Cruciani, Parenzo, basta con questa cazzata. Adesso c'è il Quantico su Fox, per carità, benissimo, stupendo, meraviglioso. Io mi sto vedendo tutta la serie. No, di ma sai che inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Ma che scherzo, non capisci un cazzo, mamma mia. Ma come, che bisogna fare? Ma non c'è, ma come uno scherzo? Inizialmente. Ma ce ne sono due o tre versioni di questo spot. No, certo, ma pensavo fosse uno scherzo, gioco. coso dei nostri amici. No, poi, ma sono dei geni pubblicitari, perché hanno capito che bisogna legare. I pubblicitari sono dei geni, ma pensavo che quei geni, anche i nostri amici ragazzi, Papoli. Ma che c'entra? Fanno la pubblicità, che fanno la pubblicità? Pensavo, no, avessero inventato questa gheghina. Ma quale gheghina? Una pubblicità? Ma cosa c'entra? È una pubblicità, ma allora mi faccio pagare di più, scusa, perché non è che possono. Chiediamo utilizzare i soldi a Fox! Chiediamo i soldi a Fox! No, ma gli amici di Fox, il signor Murdoch è peraltro. Sì, signor Murdoch, sì, cioè, Murdoch. Voglio dire, ma sto Murdoch qui, che a un certo punto ha fatto anche lì lo scandalo con la rossa dello spionaggio, eccetera. Fare, e adesso si permette. Non parlare male di Murdoch qui, che ci danno, no, i soldi della pubblicità, perché. Ah, no, no, no. Ah, Murdoch è uno di, intanto è uno dei più grandi imprenditori al mondo, esistenti al mondo, primo, al mondo. Però al capanna, lasciamo perdere Murdoch, capanna, dai. No, no, un momento, perché bisogna dire tutte le cose come stanno in questa trasmissione oclocratica. Il signor Murdoch, che vuole ha dire, usato capanna, inopinatamente i nomi di quei due farabutti, altrimenti detti Crociani e Parenzo, sì, per lanciare una trasmissione che è contro il finanziamento pubblico ai partiti. Ma non è vero, allora, è una serie su Fox, che cazzo c'entra? La, è una serie poliziesca in cui si indaga su chi ha il vitalizio. Ma non è vero, è falso. Così. È esattamente così, ritengo questa cosa vergognosa e procederò per le vie legali per denunciare gli amici australiani per aver fatto siffatta pubblicità negativa nei confronti di un uomo come il sottoscritto che ha governato il paese negli anni 66. Cosa così sarebbe successo? Ma quanti così cosa sarebbe? Noi avremmo preso il signor Murdoch a calci nel culo come i canguri. Ma quello sì, però per fortuna non è accaduto. Non è accaduto, Cavallo. Ha finanziato peraltro il signor Murdoch la campagna del signor Bush e anche su questo dovremmo intervenire e cominciare a parlare. Allora, a proposito dei vitalizi, ovviamente non si farà una mazza di quello che ha detto il presidente dell'Ips, cioè la riduzione del 50% dei vitalizi dei parlamentari oltre gli 80.000 euro, a parte che non si capisce perché vengono scelti 80.000 euro l'anno, Togliamo tutti i vitalizi dal primo all'ultimo, anche quelli che pigliano 1.000 euro, togliamo tutti i vitalizi ai parlamentari dal primo, consiglieri regionali, le regioni stanno facendo un po' di pulizia a fatica, consiglieri regionali, parlamentari, deputati europei, tutti via il vitalizio, tutti. Capanna ovviamente non ci sta, ovviamente non ci sta. Ha proprio bisogno di questi due vitalizi. Ma lei dimentica che io ho rinunciato a un terzo, quello del Parlamento Europeo. Ci mancherebbe. No, ne avevo diritto, ma per così dire, quindi l'ho già restituito. Perché discutiamo di queste che sono pippate. In ultima analisi sono pippate. Ma anche, gliel'ho dimostrato, incidono sul bilancio dello Stato praticamente per lo 0, ma per un pensionato che ne prende 400 non sono pippate. Vedere uno come lei che ne prende più di 5.000. E beh, dove sta lo scandalo? Ma come dove sta lo scandalo? Quante ne piglia? Allora, ma scusa, ma abbassiamole tutte in un momento di crisi così, abbassiamole tutte. Ha sentito Boeri? Mezzo 50%. Bischerata. Bischerate, come lotta! Trasmissione di Del Debbio. Tecnicamente pippate. No, però scusi, non può rompere sempre i coglioni. Prende due vitalizi. Ha fatto la lotta di classe. La mia nuova battaglia è contro questo canale che si chiama Fox, altrimenti detta Volpe. Abbiamo capito. Che usa inopinatamente i nomi di due conduttori radiofonici, peraltro molto discutibili, per promuovere una serie televisiva contro il sistema dei partiti. Ma non è su quello la serie. E allora io questo lo denuncerò immediatamente a Sebastiano Barisoni, ripeto il nome Barisoni, che nella sua trasmissione che antecede questo postribolo che si chiama La Zanzara, si occupa di soldi e di denaro. Sì, e denuncerò che la trasmissione prodotta dalla rete Fox, sì, di proprietà del magnate televisivo, il signor Rudolf Murdoch, che fa? Sposato peraltro più volte. Ma questo che cazzo c'entra? Questo va denunziato e va detto. È un signore che ha finanziato Bush, si proclama cattolico e si è sposato più volte. Io credo che sia una vergogna. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni. Massimo dalla provincia di Ancona, vai. Vado. Vai Massimo, un vai. Un saluto a zio Benito. No, zio Benito che è Mussolini. Perché? Sei mussoliniano anche tu. Ma qua spuntano certo, come funghi sti mussoliniani in tutta Italia. Certo, mussoliniano. Sei mussoliniano. Come perché certo un cazzo? Perché avrebbe dato una manaia a chi? A quell'uomo, a quel pensionato che... Avrebbe dato? Una medaglia. Una medaglia a chi? all'uomo pensionato che ha sparato, che si è difeso con il fucile. E vabbè, Mussolini avrebbe dato una medaglia, non lo possiamo sapere, certo, se avrebbe dato una medaglia. Probabilmente l'avrebbe data. All'epoca i ladri non ce n'erano tantissimi di ladri, all'epoca. No, ce n'erano, ladri di galline. Vabbè, allora... ladri di qua. E poi un'altra cosa, siccome io faccio l'autotrasportatore, sì, c'è molta cosa su questo cibo biologico. Aspetta però Massimo, devi stare fermo un attimo lì, perché devo mettermi assolutamente in collegamento con una persona, perché sono curioso di sapere cosa ne pensa della questione di Vatidix, il Vaticano, i corvi, gli scandali, gli sprechi della Chiesa, eccetera eccetera. Vediamo se riusciamo a collegarci con Ferrara, vai. Sei tu? Eccomi, Parenzo Maggia Ferrara. Grande direttore, come stai? Davide, mi hai invitato una sera a cena, poi tippa, niente più. Come? No, ti ho invitato, come? No? Sei tu che non potevi quella sera. No, quindi... potevo quella sera, però si danno delle cene tutte le settimane. Ora sei un salotto. Sei ne un farò salotto. Una, ne farò una. Ah, c'è il nuovo, c'è il nuovo salotto Parenzo, ho capito. Sì, salotto Parenzo, c'è il salotto salottino. Sì, che schifo, salottino. Ragazzi. Salottino finanziato con lo IOR, salottino. Ecco, sì, smettete, ecco. Dello IOR, è una banca piccolissima. Ma come una banca piccolissima? Ma è più piccola del credito cooperativo Fiorentino di Verdini. Ma dai, Giuliano, su! Ma come? Ma te lo dico io, è così. Ma è peggio, ma ci sono... Ma che volete, lo IOR ma siete matti, l'obolo di San Pietro, dai cinque continenti. Ma vogliamo una chiesa povera, una chiesa povera vogliamo. Vabbè, la chiesa povera, d'accordo, quello sono d'accordo. Io non vivo con 500 metri quadrati, mi sembra eccessivo, ma non credo che sia vero quello che dicono Nuzzi e Fittipaldi, non ci credo. Secondo me, ma come non ci credo? Secondo me sono case più piccole, e quando sono più grandi ci sarà pure il segretario, la perpetua e le cose. Altra parte sono cardinali, mica sono Giuliano Ferrara. Ho capito, ma i cardinali principi della Chiesa, principi della Chiesa. Loro lavorano per i poveri, ma non è che sono poveri, devono essere poveri. Ma come non devono essere poveri? Sai che cosa diceva Antonello Trombadori quando gli operai comunisti protestavano perché Togliatti aveva una bella casa a Montesacro? Che 500 metri quadrati, diceva Antonio Domatori, compagno, ma che Togliatti va la classe operaia? È un tesoro, dove lo tieni? In uno scrigno, capito? Bisogna avere un po' di faccia tosta, ma non sono i problemi della Chiesa, neanche della Chiesa povera, quelli che i giornalisti pettegoli d'Agospieschi scrivono nei loro libri per fare i quattrini e comprarsi loro sì degli appartamenti dei 500 metri quadrati. Per cui come li consideri questi giornalisti? Li considero degli smerdatori professionali, quindi non li stimo, sempre servizi segreti, sciocchi, che secondo me, insomma, diciamo le due cose sono poi così diverse. E poi dopo la cosa c'è al servizio sempre di una cordata di cardinali contro un'altra, e poi fanno i pasdaran, Bergoglio. Allora si era detto Bergoglio in mezzo ai lupi, eccetera. Sì, no, sì. I lupi niente. La no, perché loro è... dicono, perché loro dicono, per restare ai giornalisti, che vogliono in realtà anche loro fare un'opera di pulizia. Aiuto a Bergoglio. Appunto, vogliono fare l'opera di pulizia in aiuto della Santa Chiesa povera. Ma ci credi tu? No, ma io no. Ci credi? Io e no. Allora, appunto, ma non c'è... No, dai, che i giornalisti... Parenzo, la prego, no. Le do del lei. Per me la Chiesa è una cosa importante. E allora? Esatto. E allora, la Chiesa non si rovista come dentro una pattumiera, va bene? La pulizia la fa Bergoglio con i suoi strumenti. Ma questi fanno il loro mestiere o no? I giornalisti? Il mestiere dei giornalisti non è origliare, comprare... o comunque far procacciarsi carte e cartuccelle. Vabbè, che anche parlano solo di golezzi e di stronzate. Ma tu dici lo fanno solo per guadagnare i soldi, dici, i giornalisti? Ma insomma, soldi, carriera, fama, gloria, sono diventati delle star. Allora, D'Agostino dice... D'Agostino non voglio commentare. Perché non vuoi commentare? Perché fa un mestiere diverso da quello del giornalismo, molto, molto carino, molto simpatico, eccetera, ma... Allora se commento D'Agostino devo commentare pure la Sciauchi, che non voglio. Commentiamo anche la Sciauchi, chi è la Sciauchi? Ma che commentiamo la Sciauchi? Ma hai presente che diceva Sant'Agostino? Taceat mulier in ecclesia, le donne fuori dai coglioni devono entrare nella chiesa, le donne. Ma come non devono entrare? Ma l'ha chiamata ma no, Bergoglio! Fuori dai coglioni, la chiesa maschi e poi suore brave che fanno le iniezioni. Però scusami, ma l'ha chiamata Bergoglio? L'ha chiamato Bergoglio? Ha fatto male, ha fatto un errore. Anche d'altra parte è incredibile il fatto che questa Sciauchi abbia ottenuto così tanto potere. Ma pazzesco che ci sia una PR al vertice delle finanze vaticane, appunto. Una PR, appunto. Una che per mestiere sfaccia carte, diciamo, dubbie in giro, perché giustamente deve promuovere e rifare la faccia delle istituzioni di cui si occupa. Scherzando. Ma insomma, che sta succedendo allora? Perché escono queste carte? Sta succedendo che Bergoglio è un fantasista rivoluzionario, il quale ha detto la curia è una lebbra, sì, e poi ha detto dovete essere poveri e girare con le scarpe Mefisto, che sono quelle che porto io su, sì, una foto. Allora Bergoglio ha detto la lebbra, e sì, come ha detto la lebbra siate poveri, e naturalmente sono nati i casini, e vuoi che non nascessero casini? Per cui la colpa è sua, la colpa è sua. Ma no, la colpa non è sua, è normale che in una chiesa travolta da un fenomeno bestiale come quello di Bergoglio, bestiale lo dico in senso anche positivo, ma anche negativo, avvengano cose di questo genere. Non l'aveva detto anche Ratzinger, sono sempre le stesse cose, l'hanno fatta contro Ratzinger, adesso la fanno contro Bergoglio. Ma chi la fa contro Bergoglio? Ma chi? Non lo so, adesso mica sono un detective, mica sono da così. No, ma ho capito, ma chi dà queste carte e vuole sputtanare chi? Sono dei Pasdaran, no? Come, sì, i Pasdaran della rivoluzione in Iran, sì, questi che da dentro danno le carte, sì, i quali per carriera, per gloria, per tante cose, sì, i Pasdaran poi non sono mai così puri, c'è sempre un Pasdaran più puro che lì è pura, e loro danno via queste carte per colpire qualcuno. Comunque, una volta che il Papa ha detto che la curia è la lebbra, tu non lo vuoi dire, ma tutta la colpa è sua, tu dai tutta la colpa al Papa, ma non lo vuoi dire. Tutta la colpa no, perché è già successo con Ratzinger, che non si sarebbe mai sognato di dire che la curia è una lebbra. Ho capito, ma in questo caso tu dici... Ma dimesso, scusa. No, ma in questo caso tu dici che sono scappati, i boi erano già scappati quando il Papa ha detto questa frase. Ma la cosa evidente è che a Roma non c'è la mafia, ma in Vaticano non c'è la trasparenza. Queste sono due cose sicure. Ma hanno scoperto con questi documenti sono venuti fuori degli sprechi pazzeschi. Il bambino Gesù, sì, con l'artico di Bertone. Ma non è vero niente, ma non le vogliono vedere bene punto per punto tutte queste questioni. È troppo bello il titolo con i soldi destinati ai bambini malati, il cardinal Bertone dà le feste nella sua terrazza di 300 metri quadrati. Capito, ma è un titolo ridicolo, grottesco, sono sicuro che è così. Un'altra cosa, sono degli standard, dei criteri che hanno stabilito, anche eccessivi, perché è evidente che l'ex segretario di Stato deve andare a Vercelli in un monastero, che cazzo sa fare lì in Vaticano? Appunto. Ma questa è una questione. Ma anche Pelle spendeva un po' troppo. Sto cardinale. Ma non è vero, non è vero. Dice, prima il business, hai capito? Sti giornalisti andava in business. Io pure vado in business. E beh, a te pare che un cardinale va in business. Ma non solo questo. Non ti occupi di poveri, però. Non ti occupi di poveri, tu, scusa. Ma come? Che c'entra? Non c'entra niente. Tu fai un giornale straordinario. Ma la Chiesa è un'istituzione. Quindi le istituzioni costano, come i partiti politici. Cioè è giusto che i cardinali spendano e spandano. I cardinali devono viaggiare in business. Se necessario in business. Certo, di sicurezza. Scusa, ma hanno fatto bene? Hanno fatto tutti 80 anni. Hanno fatto bene ad arrestare queste due persone, secondo te? Dal loro certo hanno fatto bene dal loro punto di vista. La gendarmeria deve indagare, se sono rubati delle carte ed è un reato. Secondo me da questo punto di vista non ha torto Ferrara, però scusa, se ti rubano in casa tutti quanti stiamo a dire. Ma io su questo è evidente, ma questo è chiaro che si stanno rubando. No, perché tutti gridano allo scandalo, no? Dovrebbero arrestare i preti pedofili. Dovrebbero arrestare i preti pedofili. I pedofili sono finiti, quelli servivano per rimettere Ratzinger. Vabbè, dai, adesso i pedofili nessuno fa più. Che i pedofili ci stiano gli americani. Comunque scusatemi, sapete perché fa incazzare questa roba del povero cardinale nel 700 metri quadri, perché un po' come quando la FAO convocava se è vero. Senti, io ho letto che la ristrutturazione è costata 200.000 euro. Allora, ristrutturare un appartamento, sì, 200.000 euro sono la cifra giusta, è chiaro? Ma mi sa che Berlusconi non sente il tuo consiglio, va sul palco con Salvini, eh? Tu gli diresti di non andare. Io a Salvini lo prenderei a calci nel sedere, figurati, certo, un pochino con Salvini. Per cui se va là, pensa sul palco con Salvini, pensalo là sul palco con Salvini. Mamma mia. Mi sembra detto bene, per la fine della sua parabola, è una cosa assurda, su, Berlusconi è il capo di Salvini, non può andare ai comizi di Salvini. Organizzati da Salvini, tra l'altro, organizzati. Appunto, e dove lo fischiano, oppure l'applaudono, che è la stessa cosa. Ma no, comunque è iniziato il processo. Ma questo che c'entra con la Santa Romana? Ma no, è un altro discorso. È un altro discorso. Volete sfruttare la situazione, cioè mi dire le parolacce pure su Salvini. Certo, è chiaro. Siete due froci. Quello sempre, quello sempre. Quello se... Io amo i trans ormai, ormai sono innamorato dei trans. Ti giuro. Sono... Adesso vi beccate le strade in diretta e godo per voi. Ma comunque Roma sta per finire sotto i 5 stelle, eh? Arrenditi, sì. Arrenditi. E pazienza, chi se ne frega, così tutti vedranno di che cosa sono capaci i grillozzi. Ma tu chi vorresti come sindaco nella tua città? A Roma? Eh. Ma non lo so, il capo della polizia, chi è il capo della polizia? Non lo so come si chiama adesso. E ci vuole uno così, uno che arresta delle persone, eccetera, e non rompe i coglioni con la mafia. Cioè, arresta quelli che fanno le buche finte. Mannino, Calogero Mannino sarebbe il perfetto Mannino sindaco di Roma. Ecco. Intanto Berlusconi è tornato single, si è lasciato con la Pascale. No, adesso non mi trascinerete sul terreno dei Nuzzi. Ho dei documenti riservati su tutta la vicenda. Ma Nuzzi non parla della Pascale di Berlusconi. Ma parla di stronzate, su. Ma come di stronzate? Scusa, ma tu hai una notizia, non la pubblichi. Sua santità, ma che non me l'hanno notizia? Sono curato, un cane da tartufo, ma solo questo nella vita. Ma le spese pazze, sprechi. Ma che spese pazze? Immobili, è un sacco di immobili la chiesa, cazzo, Giuliano. Ma il censimento italiano non funziona da due secoli, figurati se funziona quello del Vaticano da 2000 anni. Ma no, ma come no, funziona. Sono cose accumulate, propaganda fide. Ma ho capito, ma insomma, che cazzo? Non dico che non devono fare pulizia, ma non è questa la strada, questa è solo la strada che mette i cardinali uno contro l'altro. Facciano pure, che vuoi fare? Anche la Chiesa deve cadere sotto i colpi di maglio della gay culture. Siete due froci. Siamo due froci. Ciao Giuliano, ciao. Chi è che mi chiama, cazzo, mentre sono alla radio? Ogni volta qualcuno mi chiama. Porca miseria, sbaglio io a lasciare il telefono acceso, ma che mi chiamate a fare? Sapete che sono alla radio, lo sapete, dai. Allora, c'era Massimo dalla provincia di Ancona, autotrasportatore, prima di Ferrara. Massimo, che stavi dicendo, Massimo? Non ho capito. Niente, sui cibi biologici. I cibi biologici? Che c'entra i cibi biologici? Ma tu che vai sul camion, figurati se ti piacciono i cibi biologici. Mangi quello che, mangi quello che c'è da mangiare. Piace cereali, quelle robe lì. Ma tu mangi la carne, figuriamoci. È solo che è il bello che adesso noi andiamo a prendere in Slovenia, nei porti sloveni, la soia biologica della Thailandia. Scusa, però tu eri partito da un'altra cosa, ti sei dichiarato mussoliniano. Certo. Che vuol dire mussoliniano? Che queste cose, i controlli in Italia non esistono più. Io vorrei capire chi mi chiama, ti giuro, vorrei capire chi mi chiama, aspetta. Pronto? Chi è? Parla, chi è? Non hai il coraggio di parlare col numero sconosciuto, non hai il coraggio. Massimo, come fa uno a dichiararsi mussoliniano oggi? Oggi perché vediamo tutto quello che succede in giro e ci vuole molto rigore. Molto rigore. Ma a te che cosa piaceva di Mussolini, scusa? Prima del patto con Hitler. Con Hitler. Fermo lì. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Amici miei, siamo al flop. Allora ragazzi, noi parliamo in questo periodo molto poco di politica perché non ce ne può fregare di meno, almeno io, e soprattutto perché insomma non produce più nulla di interessante, tutti i battibecchi inutili, per carità ce ne siamo occupati a lungo, ci abbiamo anche vissuto, adesso si punta su altre cose. Comunque, cosa è successo oggi a proposito di governo e di battibecchi all'interno del Partito Democratico? Beh, è successa una cosa molto forte. Il signor Mineo, non so se molti di voi lo ricordano, è ancora questo numero sconosciuto, guarda che mi incazzo sul serio, Cioè è inutile che mi rompete le balle durante la trasmissione, perché... Sì, pronto? Chi è? Chi è? Sotto controllo sanitario, chi è? Giuseppe, ma quanto sei sicuro? È uno che mi minaccia, amico mio! Ma qui ti metto in diretta e ti sputtano! Allora, Mineo, Corradino Mineo, uscito dal Partito Democratico, cosa ha detto Mineo? Voi pensate che cazzo ci frega di quello che ha detto Mina, però sentite questa, sentite questa. Parla di Renzi: so quanto si senta insicuro quando non si muove sul terreno che meglio conosce, quello della politica contingente. So quanto possa sentirsi subalterno a una donna bella e decisa, fino al punto di rimettere in questione il suo stesso ruolo al governo. Io so, ma non rivelo i dettagli di conversazioni private. Non mi chiamo Renzi, non frequento Verdini, non sono nato a Rignano, eccetera, eccetera. Sono due le frasi fondamentali. Subalterno, cioè Renzi che si sente subalterno a una donna bella e decisa, che di tutta evidenza ha un nome e cognome, si chiama Maria Elena Boschi. E poi, io so, ma non rivelo i dettagli di conversazioni private. So che cosa? Sono messaggi un po' trasversali, diciamo la verità, Parenzo, no? Sono messaggi trasversalissimi, no? Quasi, sì, che beh, quasi pizzini, strano. Quasi pizzini. No, tant'è... pizzini, è strano, detto da Mineo, cioè se n'è andato, perché deve dire che che vuol dire? Vabbè, è incazzato e parla male di Renzi. No, dice che subalterna una donna e dice che lui sa... Ecco, ma dire però, attento, l'accusa politica, è interessante perché sta roba, interessante, poi tu dici che non interessa a nessuno, ma non è vero perché sottovaluti i camionisti che tra con disprezzo. Non sto dicendo che non si interessano di cose serie, sto dicendo che queste non sono cose serie. I camionisti sanno molto più di tutti. Sto dicendo che queste non sono cose serie. Tutto il giorno, sto dicendo tutte le serie. Ma che c'è? Allora, questa è una cosa serissima. Perché in realtà a cosa si riferisce? A chi si riferisce? Ma manco tu lo sai dire, non lo sai spiegare, non è facile da spiegare, sono battibecchi interni tra gente morta. Allora, no, la volgarità. Allora, Giachetti, che non è morto per niente, dice: la volgarità e il delirio di Mineo contro Matteo Renzi, più che la cosa rossa, rende necessaria la croce rossa, cioè portatelo via con l'ambulanza. Altri ancora peggio, l'amico Esposito dice: una roba penosa quella detta da Mineo, se l'avesse fatto a me gli avrei spaccato la faccia, punto, spaccato la faccia. Un tuo amico, Luciano Nobili, che è uno del Partito Democratico a Roma, dice: avresti fatto bene, Stefano, e poi dice anche che è un poveraccio, un miserabile Mineo, eccetera, eccetera. Poi altri commenti, le donne del PD incazzate. Mineo, cosa volevi dire? Io so, ma che è un pizzino mafioso? Chi è la donna che sottomette Renzi? Chi è? Ancora il camionista, però chiudiamo con sto camionista, dai, Massimo dalla provincia di Ancona, vai Massimo. Allora, noi passiamo i controlli di questi prodotti che viene dall'estero. No, non me ne frega niente dei prodotti. Non me ne frega niente dei prodotti. E sono radioattivi. Sono radioattivi, vabbè. Senti, io voglio dire una cosa. Perché ti dichiari mussoliniano? Perché? Che cosa c'hai perché di Mussolini? Perché voglio un po' di giustizia. Ma che c'entra Mussolini con la giustizia? Era un dittatore, dai, su, Massimo. Non era un dittatore prima. Ma che no? Che diventasse dittatore. Senti, era uno che ha fatto le cose giuste. Ma il popolo si faceva giustizia da solo. Appunto. Senza tanta polizia. Senti, Massimo. È inutile che Parenzo dice: se arriva qualcuno che ti ruba qualcosa, chiami la polizia, la denunci. Quando arriva la polizia, te già sei là di là. Lei mi perdonerà, ma io non ho nessuna intenzione, ma nessuna. Di interloquire con uno che si definisce mussoliniano. Mamma mia, parlaci, attaccalo, digli che è un coglione, no? Ma che significa no, nessuno? No, ma neanche, perché no? Ma allora stai zitto, ma questa è una trasmissione, mica è un mortorio. No, nessuna intenzione. Con l'aldilà si aspetta la polizia. No, no, nessuna intenzione di interloquire con un signore che si dice mussoliniano. Allora, ieri con l'Ele More interloquì, però, si è definito mussoliniano, perché... Arriva la polizia. Vattene a fare un tamponamento. Ma che succede nelle piazzole gay? Nelle piazzole delle autostrade? Ma che succede? Ma cazzo delle piazzole? Le piazzole ci fanno giustizia da soli, se volemo. Sì. Non chiamiamo almeno qui la polizia, perché tanto non arriva. Ma che non arriva? Massimo, che non arriva? Vabbè, Massimo, ciao. Nicola, provincia di Caserta, dai. Ciao, volevo intervenire un attimo sulla questione di Napoli, di Giletti. Ma Giletti? Sì. Ha parlato così di Napoli, perché secondo me non c'è mai stato. Napoli è molto peggio. Tu dici molto, molto peggio, dici. Per noi che la viviamo quotidianamente, Napoli è molto peggio. Esci alla stazione centrale, ci sono cumuli di immondizia dappertutto, gente che ancora fa il mercato prendendo le cose dalla spazzatura e vendendole. Vai un po' più avanti, la nuova stazione della metropolitana, in questi giorni, non mi ricordo se il mattino Napoli o Repubblica Napoli, ha fatto un'inchiesta. c'è una zona che si chiama i Giardini dei Tossici. Hanno fatto la stazione nuova della metropolitana, sì. Il Giardino dei Tossici è ancora lì. Questi, addirittura di mattina, io non li ho visti, ho letto un servizio giornalista, ancora lì, di mattina, si bucano davanti agli altri. Un po' più avanti. Ma quello non è che quello non succede solo a mia Napoli, eh? Certo, certo, un po' più avanti, Piazza Garibaldi, macchine in 14ª fila, al rettifilo a Napoli, non puoi camminare a piedi, ogni secondo ti arriva qualcuno che ti deve rompere il cazzo perché ti vuole vendere per gli idioti l'iPad, l'iPhone e poi dentro c'è il mattone. Siamo ancora a questo. Vogliamo parlare della movida, dove si fa la movida il sabato sera, la domenica. Parcheggiatori abusivi dappertutto. Io sono andato a San Carlo 2 sabati fa. Di mestiere faccio il giornalista per un quotidiano locale. Sì. Sono andato a San Carlo 2 sabati fa. Sì. Via De Pretis, di fronte al comune, il parcheggiatore abusivo viene vicino e mi dice: capo, è facile, ci faticai. E dunque? Cioè, chiedeva i soldi. I parcheggiatori abusivi a Napoli, sai dove stanno? Dove? A Via Verdi. Via Verdi è la strada adiacente al comune. Vabbè, c'è un tasso di abusivismo, di pensioni di invalidità finte, eccetera, eccetera. È una cosa superiore alle altre città. Il caro De Magistris, farebbe bene ad andare a meno prime teatrali, perché cazzo, io lo vedo dappertutto. Io lo faccio per mestiere, ogni volta, quasi sempre vedo lui. Ma l'importante non sono le prime teatrali, amico mio. Provare a governare un attimo e non a prendere... Allora, De Laurentiis, io sono di voi se l'aiuto, De Laurentiis dice che il San Paolo è un cesso, lui subito interviene, il San Paolo è un cesso. È vero, ha ragione De Laurentiis, allora, tutta la vita. Allora sempre là questo, ogni volta, Giletti dice che la città è sporca, purtroppo la città è sporca, figurati se io ho simpatia per Salvini, la città è sporca, la città non è amministrata, non hai mai l'idea della sicurezza. Sì, ma il problema non è De Magistris, però, capito? Perché è così da sempre, però, non è che gli altri... Appunto, non cambia mai, ma secondo te è normale che in una città i consiglieri comunali facciano una discussione sui biglietti omaggio allo stadio e la città non va lì e li butta da sopra a basso? Perché la città, se fosse una città sensibile, cosciente dei propri... Ma la città li ha eletti però con le preferenze. Ma io ho sempre detto, i politici sono lo specchio della città. Chi li elegge? Se io anni fa mi candidai ad un'elezione comunale della città dove io vivo, no, presi 47 voti, mi viene da ridere se vedo la classe dirigente della città... Cioè tu sei molto meglio dei politici eletti, dici? Io sono un intellettuale finissimo a confronto di questi. No, è probabile che sia così. Ma è per questo che voglio fare la lista Zanzara in un sacco di comuni. Perché voglio dimostrare che noi spesso possiamo fare anche delle cose concrete molto meglio di quello che fanno i politici lì. Che alla fine moltissimi fanno quello che vediamo. A Napoli, per esempio, discutono se darsi o no i biglietti invece di mettere a posto lo stadio. No? Nicola, grazie. Ciao, ciao, ciao Nicola. Stefania da Roma, vai! Ciao! Senti, a parte mi sono rotte le palle di sentire tutti questi che vogliono sparare, tutti quelli che entrano in casa, hanno rotto in scatola. A me mi è successo l'altro giorno una stupidaggine, cioè? Perché mi è andata bene. E sentivo, ero in casa, sentivo fuori la porta rumori, ho visto dallo spioncino, c'erano due donne, sì. Sicuramente, e una stava facendo il palo e l'altra cercava di trafficare per aprire la porta. E io cavo la bomboletta, quella al peperoncino, sì. Ho aperto di scatto la porta, io ho spruzzato il peperoncino, sì. E quelle sono scappate. Allora... Allora dico, cioè basta la bomboletta allo peperoncino, ma no, che basta la bomboletta al peperoncino, basta, diciamo, basta quello che uno si sente di avere. Se uno si sente in grado di sparare, non ha precedenti, eccetera, eccetera, prenda una pistola, la porti in casa. Se uno spara perché sta per subire una rapina o subisce una rapina, non gli devono rompere i coglioni. Molto semplice la cosa, non è strana. Spesso la legge è più bizzarra, certo. Poi dice Parenzo, bisogna aprire lo stesso il procedimento penale. Nessuno lo mette in dubbio. La conseguenza è che uno viene massacrato. Esistono leggi per tutelare chi vive in casa e chi viene violato nella propria intimità. Vabbè, Stefania, casa. Allora. Vabbè, tanto questo è il discorso. Che volevi dire? L'abbiamo già fatto. Sì. Esatto. Io volevo dire una cosa. Non so se avete affrontato questo argomento oggi. Non so se avete letto Di Muccino che ha. Sì, diciamo, Pasolini. Ma chi se ne frega di Pasolini? Dai, su 40 anni fa è morto. Ma è morto 40 anni fa. Ma che cazzo gli frega? Che cosa discute la gente di Pasolini? Ma tutto il paese discute. Ma mica sono tutti dei sommari. Ragazzi, io sono andato a fare una partita sabato a Roma per i 40 anni di Pasolini, perché mi hanno invitato a giocare a pallone. Alla gente di Pasolini non gliene fotte con tutto il rispetto, Pasolini, per carità, si può discutere, alcuni dicono che non ha contato un cazzo, altri dicono che è stato un grande intellettuale, il cinema l'ha fatto bene, l'ha fatto male, ma la gente normale di Pasolini non fotte nulla. Ma chi, chiaro? Ma chi frequenti? Ma tutti, guarda, tutti quelli che conosco io, ma tutti non tu? Parlano di Pasolini ogni giorno. Ma della gente pazzesca tu, però. Vabbè, invece a te appassiona Pasolini. Ogni tanto frequenta qualcuno anche di intelligente che dice delle cose, che ti mette in discussione. Vabbè, Stefania, dai, dimmi. E poi le voglio dire una cosa. Ma che c'entra Pasolini adesso? Non ho capito perché. No, perché diceva che Muccino. Ma non c'entra Pasolini. Muccino, che è un regista. Mazzalo, che bella. Che polemica. Muccino, che polemica. Interessantissima. Allora, scusate, Muccino che dice che Pasolini non voleva un cazzo nel cinema. Ammazza, ci faccio tutta una puntata. Guarda, cioè, ci faccio tutta una puntata. Ma non ci devi fare una puntata. Basta dire semplicemente che secondo lui, evidentemente, i suoi. Ha detto una cosa controcorrente. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Meglio Muccino di Pasolini. Meglio Muccino di Pasolini. Meglio Muccino di Pasolini. Meglio Muccino di Pasolini. Ma per te, perché guarda, ma tu non l'avrai vista, l'hai vista a cattone, tu l'hai vista la mamma. Vabbè, Roma, Stefania, l'hai ma chi se ne frega, dai, vai avanti, che volevi dire? Ma non me ne frega niente. Comunque, insomma, è la nostra storia. Pasolini, devo parlare di Pasolini alle 20:12. No, io sto parlando di Muccino, che prima di verrà se deve sciacquare la bocca, perché non capisce un cazzo, punto. Vabbè, è una cosa mi appassiona moltissimo. Questo è quello che penso io. Scusate, ma sono stata posseduta dalla sorella, mi dispiace molto. La taverna sei come la taverna, sei come la taverna. Poi te volevo dire una cosa, Cruciani. Prima ho sentito che parlavi con uno che ha telefonato, ha detto parlava del fatto delle articolo bravo, mi calmo. Vai, scandisti, la moglie, questo, no? Sì. E tu tutto intrigato, tutto eccitato, hai detto: "No, vabbè, ma dai, ma perché? Sì, dai, dimmi, ma che cosa c'è di male? Io vorrei sapere una cosa, ma te moglie, se ce l'hai, o la tua fidanzata, ce la porteresti in un posto così? Ma tutta la vita? Ma tutta la Madonna, vita proprio. Che tutta bugiardo! No, ma che bugiardo, ma ti dico la verità, ma tutta la vita, magari trovare una che vuole farsi fare da altri, vuole farsi trovare da altri, davanti a me. Scusa, trovarne tutta una. La vita, tutta la vita, amica mia, tutta non la vita. Non ci credo. Senti, un uomo deve avere almeno tre donne, la moglie, la geisha e l'amante. Non è una frase mia, ma me la voglio scolpire, tra le tante che mi voglio scolpire, forse addirittura mi potrei fare un tatuaggio. Un uomo deve avere almeno tre donne, la moglie, la geisha e l'amante. Io dico, vado oltre. Un uomo deve avere un numero infinito di donne, la moglie o la fidanzata, l'amante e poi le amanti occasionali. L'amante fissa e le amanti occasionali. E giù a scendere. Ma questo chi l'ha detto? Non ce l'hai rivelato? È un signore, magari lo invito alla radio, se gli regge la pompa, perché... L'ha detto Sgarbi? No, Sgarbi, poveraccia. Attenzione, un applauso, fermi tutti, un applauso alla madre di Sgarbi, Rina, che è morta ieri sera alle 20:30. Voglio salutarla così con un grande applauso, ma in onore soprattutto di Vittorio. Io la madre l'ho conosciuta, ma l'ho conosciuta poco, perché so che era attaccatissimo alla madre, attaccatissimo, molto attaccato alla madre. So che ovviamente sta passando un momento molto duro, soprattutto perché la madre, perché anche noi cinici abbiamo ogni tanto dei nostri momenti di tenerezza. Lui aveva questo rapporto molto particolare con la madre, dunque una perdita molto grave, al di là della perdita normale, padre, madre, figlio, eccetera, eccetera, però in particolare la madre per Vittorio aveva una grandissima importanza. I funerali, dove andrò, saranno venerdì alle 11 a Ferrara. Pubblicità. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. vi presenta La Zanzara. Le donne fuori dai coglioni. Allora, l'autore degli aforismi di prima, quello della moglie, della geisha e dell'amante, scrive anche: le donne le sollecitavo a pensare al marito quando me ne scopavo. La cosa mi faceva sentire ancora più adultero. Beh, amico mio, siamo al top assoluto, al top assoluto. Oggi sono impotente. Ma questo non è buono però, eh. Non è buono finire così. Non è buono finire impotenti, eh. Più che un amatore, sono stato un grande cavalcatore. Ti prego. Allora, siamo sempre con Stefania da Roma, la novella senatrice Taverna, che ha la voce molto simile alla senatrice Taverna, dei 5 Stelle. Stefania? Che hai fatto? Sei morta? Che hai fatto? Sei caduta? No, che hai fatto? Ho riso quando hai detto la senatrice Taverna. Io non ho capito una cosa, ma tu per esempio lo tradisci? Sei fidanzata? Sei sposata? Che c'hai? Sono accompagnata. Ma che vuol dire accompagnata? Dai, su. Accompagnata. Ma che vuol dire accompagnata? Quanti anni hai innanzitutto? Over 40 o sotto i 40? Sopra. Sopra, vabbè. Buono, diciamo. Ma dimmi una cosa, ma sei accompagnata, che vuol dire che frequenti uno, ogni tanto te lo scopi e basta, così, cioè una tromba, è un no, tromba. No, sono accompagnata, c'ho un compagno. Hai un tromba amico? Ah, no, hai un compagno. No, ma quelle tromba amico, basta, io mi sono stufata delle tromba. C'è proprio una cosa che proprio mi viene la nausea. Cioè ti viene la nausea a che cosa? Al sesso? Il sesso ti dà la nausea? Sì, basta. Insomma, c'è proprio una cosa che non mi ho fatto tutto quello che dovevo fare e non basta, ti interessa più il sesso? No, devo dire la verità, questo è interessante. Poi, magari ti serve, non lo so, qualche film porno quando siete insieme. No, io film porno me li vedo da sola, perché io penso che la masturbazione sia il sesso più colto. Beh, amici, fermo tutto. Fermate tutto, fermi tutto. Tu sei alla fine sei partita con una cosa che non condivido, ma alla fine sei arrivata. Sei venuta verso di me. Cioè la masturbazione, stai dicendo, è la forma di sesso più colto. Cioè sì, che vuol dire? Spiegami bene questa frase. Più alto, più colto, cioè non c'è niente di più sublime, cioè non c'è. Cioè una di masturbarsi cosa davanti a un di masturbarsi il davanti porno, a un porno a guardare, sì, voyeurismo, per esempio. Cioè meglio guardare che fare. Ma tutta la vita. Beh. Io ho fatto pure tanto e devo dire che, per carità, mi sono divertita, è stato bello, insomma, con l'amore, senza l'amore, eccetera, eccetera. Però basta, alla fine, a un certo punto basta. No, però alla fine ho sempre pensato che masturbarsi, perché non ho mai abbandonato la masturbazione, è stato quello mai bisogna, mai. Non bisogna no, mai perché farlo. È la più cosa più bella che c'è, secondo me, è la cosa più figa, certo, poi magari è bello pure masturbarsi davanti a una persona, cioè ci sono varie declinazioni, varie declinazioni di questa cosa, sì. Qua non c'è dubbio. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta, già te vedo io. Brava. No, non credo proprio. È vero, Vanessa. No, più ne parla. Com'è ne che parla, fa la seghetta? Siccome scusa, ormai è un ricordo lontanissimo, evidentemente, allora lo sublima così, capito? Perché è un ricordo lontano. Guarda, se io arrivo a darmi un bacetto in fronte davanti alle telecamere, abbattetemi. Dico solo questo. Se arrivo, se arriverò un giorno a darmi un bacetto in fronte davanti a una telecamera con una cosa via web eccetera, abbattetemi. Stefania, allora non ho capito che stavi dicendo, sì. Com'è la seghetta? No, dico te, io già mi immagino che sei lì, fa la seghetta. Non fa così la seghetta, non fa così, amica mia, non fa così. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Questo era il mitico Alex Magni, intellettuale di riferimento ormai della Zanzara. Intellettuale di riferimento. Vabbè, Stefania, continueremo presto questo discorso, molto no, presto. Ma io voglio sapere sapere, scusa, l'unica mi dici chi è l'autore di questi aforismi? Guarda, sono molto curiosa. Dai, su, ma adesso te li dico, magari domani te li dico. Ma vai a cercare su internet e li trovi, dai. Cioè... Vabbè, secondo me è un altro deficiente che racconta un sacco di cazzate. Ma chi? Perché? Io? No, ma sono tutte cose vere. Ma gli uomini, questo che ha scritto queste cose, che lui è un grande cavalcatore, che ha detto lì. Ma sai le cazzate che raccontano gli uomini? Mamma mia. Anche guarda. Le donne, anche le donne, per carità. Anche le donne. Anche non le lo donne. So, possiamo, anche... possiamo, no, gli uomini... questo è un file bellissimo che si potrebbe aprire, ma non è il momento, immagino. Ma io vi richiamerò. Brava. A fine serata, così almeno tu quando torni a casa ti fai la seghetta. Ma no, amica mia, non me la faccio la seghetta. Ma perché dovrei farmi la seghetta? Scusami, perché dovrei farmi la seghetta? Allora, e allora poi ti ecciderai e a fine serata te prendi la tua fidanzata o moglie e te la porti in un club di scambisti. Cioè, non ho capito, tu vuoi farmi eccitare così poi io torno a casa? Arrivo a casa, arrivo alla fine del programma. Scusate, ma perché non, se ti serve qualcosa col tuo fidanzato, perché non facciamo, ti faccio una telefonata erotica? Cioè faccio una telefonata. Beh, facciamo una telefonata erotica meravigliosa col tuo fidanzato, mentre cioè io ti chiamo mentre ecco. Hai detto un'altra cosa bellissima, un'altra cosa molto bella, sempre che ha a che fare con la masturbazione, è fare sesso via telefono. Ah, quella pure è un'altra cosa meravigliosa. Cioè tu fai tutto tranne che il sesso vero? Non lo faccio da un po' di anni, cioè da un po' di anni. No, aspetta, no, sto dicendo una cazzata. Due che anni, cosa mi fai dire? Due anni. No, allora, adesso lo faccio, magari devo fare una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, perché non mi va più di no, ma è giusto, giusto. Questa è la fine dei rapporti fissi, i rapporti quelli stabili. Si arriva a farlo ogni volta i 3-4 mesi, Parenzo lo sa benissimo d'altra parte, no? Cioè, ma io non è consapevole niente. Assolutamente di questa no, cosa qua, me l'hai raccontato l'altro giorno. Sai che su questi temi io non... No, me l'hai raccontato l'altro giorno, l'altro giorno che i rapporti duraturi purtroppo portano... Giuro figlia. Giuro, assolutamente, portano a fare... perché io non parlo, sai che non portano, parlo mai... Ma no, ma è importantissima questa cosa qua. Io non parlo mai di queste cose, tanto meno alla radio. Lo sappiamo che non cioè, parli mai. In privato posso dire delle cose molto... Ma non lo sappiamo, non c'è bisogno che lo... Che lo ribadisce ogni volta. Ma lo sappiamo. Policy, no, io lo ribadisco invece. Ma lo sappiamo benissimo, non ti preoccupare, non devi giustificarti nei confronti di nessuno, non ti preoccupare. No, mi giustifico, anzi, ma non ti devi giustificare. Ma non ti devi giustificare, non ti preoccupare. Io ho la mia coscienza. Sì, non sì. Parlo. Vabbè, ma ce ne sbattiamo i coglioni, questo è il punto. Ti faccio contento. Né della policy, non parlo di cazzo. Di sborrate, così sei contento. Vabbè. Chiudete. Vedi che lo so dire? Chiudi, che tanto è inutile. Stefani, allora non ho capito. Senti, no, mi fa ridere. No, sai che c'era un'altra cosa che volevo dire. Avete parlato pure della tua. Tra l'altro, una delle parole prima pronunciate da Parenzi non l'ho mai pronunciata qui alla radio, per cui è inutile fare lo scherzo. No, quello sì, il primo sì, ha voglia, come no? Tu ridi, ma l'unico che non ride è lui, ma chi se ne frega. Stefania, vai, allora che dicevi? Stavo dicendo un'altra cosa di cui avete parlato l'altro giorno, perché io mi sento tutti i giorni quando torno dall'ufficio in macchina e devo dire mi fate tanta compagnia. No, è piacevole, una volta è un po' così, un po' retorica, però vabbè, insomma, allora? Invece altre volte è piacevole. Volevo dire che avete parlato della topa, della topa spelacchiata, pelosa. Non è che parliamo solo di questo, prima con Ferrara abbiamo affrontato discorsi molto... No, ho seguito. Ho seguito anche questo. Dai. No, però a proposito della topa spellacchiata, la topa spellacchiata a me mi fa pensare a un petto di pollo, ecco. Beh. Volevo solo di questo. Stefani, editorialista della Zanzara. Ciao Stefi. Ciao Stefi. Ciao. Il petto di pollo. Ciao. Che ne pensano i napoletani? Napoletani di Giletti. L'associazione italiana sondaggi all'opera. Pronto? Signora, buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Posso rubarle solo un secondo? Dica. Lei sa che recentemente Massimo Giletti in TV ha definito Napoli città indecorosa, solo immondizia in tutti i... Guarda, ma ti rispondo proprio in napoletano. Sì. Massimo Giletti è proprio una chiavica. Ha sbagliato proprio. E prima di parlare di Napoli, Giletti si deve prima sciacquare la bocca. Se incontrasse Massimo Giletti per strada, cosa gli farebbe? Io lo sputerei in un occhio. Farei proprio come Totò. Lo farei sedere, gli coprirei con un tovagliolo alla gola, chiuderei un occhio e nell'altro lo sputerei, perché la devono finire di sputtanare Napoli. Pronto? Buonasera, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, IDS. Le rubo solo un minuto, signora. Lei sa che recentemente Massimo Giletti in TV ha definito Napoli città indecorosa, solo immondizia in tutti i vicoli? Sì. Secondo lei ha ragione? No, perché ci si merda sempre. E se vedesse Giletti per strada, gli direbbe o farebbe qualche cosa? Sì. Cioè? Lo devo dire? Sì. Lo scriverei in faccia. Perché si smerdano sempre a noi napoletani. Per questo, io odio i nordisti, per questo. Lei inviterebbe Giletti a casa sua a bere un caffè? No, io prima lei, io l'ho apprezzato sempre, adesso non posso dove avrei. Secondo lei Giletti ha ragione? Per me Giletti è tutto uscito fuori di testa, senta a me. Si venga a fare una passeggiata a Napoli. Secondo? Sì, buonasera, qua Associazione Italiana dei Sondaggi, IDS. Posso rubarle solo un minuto? Mi dica, c'è una persona allettata. Guardi, velocissimo. Lei sa, signore, che recentemente Massimo Giletti in TV ha definito Napoli città indecorosa, solo immondizia in tutti i vicoli? Secondo lei ha ragione? Sì. Quindi sì. Napoli fa veramente schifo? Sì, schifo, sì. Anche se il sindaco dice che a Napoli si sta bene, si vive bene. Lui vive bene, forse. Piglia 15 euro, 15.000 euro al mese. Non io. La spazzatura ha preso d'oro, ma non abbiamo nessun servizio. Non abbiamo nulla. Attento al DDT, sai? State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guardi, da chiudere. Ma qui è tutto un casino che stiamo... Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Giuseppe da Napoli, vai! Vai Giuseppe, cavare! Dimmi, dai, parla meglio. Voglio dire una cosa sui rom, sui zingari qua. Voi sì. Ancora dovete capire una cosa tutti. Che dobbiamo capire. È una razza, dimenticate la patria eterna. Che vuol dire? Gesù Cristo se l'è scordato. Ormai sono allo sbando sta gente. Ma sta chi gente, è allo sbando? Diciamo di gente, per su. Non ho capito, chi è, non ho capito niente, rimettiamo le cose a posto. Dunque, sì. che volevi dire? I zingari, sti rom, Gesù Cristo, se l'è dimenticata sta razza qua, ormai sono dimenticati dal Padre Eterno, fanno quello che cazzo vogliono, allo sbando. Che vuol dire stanno allo sbando, fanno quello che cazzo vogliono? Sono due cose diverse, cioè nessuno li controlla. Non normale. Gesù Cristo se l'è dimenticato. Io credo in Gesù. Gesù Cristo ci guarda a noi dall'assù. Ma che vuol dire che se li ha dimenticati? Cioè, se li ha dimenticati, Giuseppe. No, ho capito. Ormai fanno quello che cazzo vogliono, loro rubano, violentano, fanno tutto. E noi siamo i coglioni che li guardiamo. Facciamo. Ma a me non mi pare che sia così la situazione, certamente spesso rimangono impuniti come tanti altri italiani, per carità, cioè, non è che riguarda solo gli zingari. Ma tu li vedi per strada, nei cassonetti, a cercare il limone con i bimbi di un anno piccolini in braccio. Quello non va fatto, quello è una roba, bisogna normale. Quello bisogna togliergli i bambini immediatamente. I bambini, bisogna cacciarli via tutti, Giuseppe, io li caccerei via affrustate, tutti, a uno per uno. Affrustate, bimbi piccoli, grandi, vecchi, perché i piccolini crescono come loro quando si fanno grandi, Cioè? Tu sopprimeresti i bambini, li sopprimeresti direttamente? Ma no, i bambini lasciamoli stare, ma a quelli là affrustati, tutti vi affrustate, uno dietro all'altro, affrustate. Però una soluzione ce l'avrei con questi qua, una soluzione ce l'avrei. Aprire di nuovo auspici solo per questi qua e chiudere subito. Aspettavo. No, aspetta un attimo, non ho capito, Giuseppe, tu aprirei auspici per questi qua. Proprio per questi qua. Cioè li metteresti nei forni crematori, nomadi? Ma hai voglia, perché questi qua ci rovinano a tutti. Ci hanno rovinati. Tu che mestiere fai, Giuseppe? Io sono camionista, Giuseppe. Dove scorrazzi? Io scorrazzo per il nord, da Napoli al nord, tutto il nord. E perché metteresti nei forni crematori i rom? I rom? Ma è normale, ti pare bello quello che fanno, Giuseppe? Ma che fanno? Sì, ma rubano. Non tanto, ma a nord là fanno di tutto. Dunque, soluzione olocausto per i Rom, soppressione per i Rom. Subito. Subito. Cioè vanno eliminati uno a uno, cioè con le fosse comuni. Oppure li manderei, come ho detto prima, affrustate, uno per uno, uno dietro all'altro, però affrustate sempre. Sempre affrustate, perché? Perché? I paesi loro spesso però sono l'Italia, i paesi loro. Come facciamo per gli italiani? Come? Non ho capito. Per quelli che sono italiani, come facciamo? Italiani ma lavorano, se lavorano e stanno bene inquadrati qua io li farei stare, perché se lavorano, vanno a cercare l'elemosina e a rovesciare i calzonetti a casa loro, quali italiani? Ma a casa loro è l'Italia, che facciamo con quelli che vanno a rovesciare i calzonetti, con i nomadi italiani? Cerchiamo di mettere un po' di ordine in questo discorso, con i nomadi italiani che vanno a rovesciare i calzonetti, cosa farebbe Giuseppe da Napoli? Cosa farei? Li caccerei sempre io li caccerei sempre. Ma per mandarli dove? Ai paesi loro. Ma non mai l'Italia al paese loro? Lo Stato che è una merda allora. Beh, allora che facciamo? Allora, con questi qua eliminiamoli direttamente, è una pistolettata in testa, che ne so. Cioè. Eliminiamo tutti allora. Tutti eliminiamo, tutti. Vabbè, Giuseppe, tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao. La vita senza cinismo sarebbe un tartufesco piagnisteo. Il cinismo te la fa vedere in faccia con le sue rughe, la vita, le sue pieghe, le sue piaghe. Il cinismo non fa sconti a nessuno, neppure ai cinici che lo predicano e lo praticano. Il cinismo non ti illude, non ti infonde fallaci speranze. A proposito di Napoli, però, vediamo se riusciamo a pizzicare quello che ha litigato con Giletti in trasmissione, te lo ricordi? C'è quello che è stato poi alla fine il l'avvocato lì, come il motivo, si chiama? Sì, l'avvocato Crocetta, si chiama come il presidente della Regione Sicilia, l'avvocato Crocetta, consigliere comunale credo per i socialisti, esistono ancora i socialisti a Napoli, vediamo un po' se lo pizzichiamo alle 20:40. Pronto? Sì, Crocetta, buonasera, Radio 24, come sta? Bene, mi dica tutto. Senta, le dico subito, ma le pare normale che adesso il Comune di Napoli chiede 10 milioni di euro di risarcimento a Giletti? Penso che sia una logica, diciamo, forse provocatoria, come fosse stato provocatorio anche qualche parola di troppo che è stata detta dal conduttore Giletti. Secondo lei la RAI deve pagare? Cioè, è stata lesa l'immagine di Napoli? Io penso che non sia stata imparziale, Giletti ha un po' enfatizzato, Salvini è sempre qui presente, insomma sembrava che si stesse facendo una campagna elettorale per Salvini. Il che non mi sembra giusto. Io non capisco, come fa a dire che Giletti fa campagna elettorale per Salvini, scusi? Guardi, nel momento in cui me ne enfatizza eccessivamente la posizione politica e quelle che sono le presunte doti politiche e poi gli dà uno spazio che non è, che non, cioè non, ha fatto l'esaltazione di Salvini, dice lei. Ma sì, non si è rispettata una par condicio. Secondo lei andrebbe sanzionato Giletti? Più che altro andrebbe fatta da parte della commissione d'inchiesta della RAI un giro di vita, cioè in futuro non capiti una situazione di questo tipo e ci sia un po' una tiratina d'orecchia a quelle che sono i conduttori, diciamo un richiamo forte che faccia capire che la RAI è un ente pubblico, tutto viene visto non solo in Italia, non è un fatto positivo discreditare una città d'Italia anche se non è la sua. Perché all'estero non è una cosa che giova. Scusi, screditato, Crocetta, lei era lì, avete risposto, c'è stato un dibattito, lei non può, oppure non avete potuto... Veramente, guardi, il dibattito e la chiacchierata la stiamo facendo lei, perché lei per esempio non abbassa il volume della... quando io parlo. Cioè Giletti anche... non l'ha lasciata parlare? Ma no, perché vede, per riguardo alla par condicio, non si può lasciar parlare solamente una persona che non so, c'è un rapporto particolare con Salvini, io non lo so. Ho capito, ma insomma lei non lo vuole dire, i due erano d'accordo per sputtanare Napoli, questo è il punto. Diciamo che l'ho fatto un po' come il comico alla spalla. Ah bene, purtroppo... chi era il comico? Lì il protagonista è Giletti è protagonista perché c'è anche una responsabilità funzionale, perché sì, è lui il conduttore, quindi deve lui è garante. Allora, però io le voglio chiedere una cosa, alla fine questi famosi biglietti dello stadio ve li siete tenuti, caro Crocetta? Era l'inizio del dibattito, era su questa roba qua. Non ci sono biglietti, come ho detto già anche a Giretti, c'è rimasto male quando io gli ho detto avete fatto la scoperta che ci sono le tribune tutti. Delle autorità in tutti gli stadi di Napoli. Le vogliamo eliminare queste tribune autorità o no? Perché la tribuna autorità, come lei dovrebbe sapere, nasce per delle esigenze di ordine pubblico e ci vanno persone che solitamente ci hanno accolta, come il prefetto, il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica, il presidente della regione. Io volevo chiesi a Giretti, ci è rimasto un po' male, poverino, perché non sapeva che dire, se mi voleva mettere il prefetto nella curva A o nella curva B. Ma no, ma quello che c'entra? No, c'entra. C'è una legge di Stato del 2008 dove praticamente le persone sono graduate secondo la autorevolezza. Una volta ha detto che va allo stadio anche per ispezionare, o no? Ma sicuramente. Allora guardi, così come torno a dire, le faccio un esempio, se ci va il presidente della regione Campania e ci sono dei motivi che riguardano la sua competenza, ma che competenza? O ci va il prefetto dei motivi di ordine pubblico, è chiaro che se vedono la partita non potranno non rilevare che ci sono altre cose. No, però scusi, Crocetta, a che serve andare allo stadio se non a divertirsi? Cioè lei che cosa ci va a fare? A divertirsi, immagino? Lei e i suoi... Perché per esempio io non ci vado neanche molto spesso, per me sono tifosissimo della mia squadra. Però i suoi biglietti li distribuisce a collaboratori, amici, eccetera, eccetera, immagino. Veramente a collaboratori, cioè ognuno di noi... E che, vanno, e che cosa vanno a fare allo stadio? A divertirsi? No, guardi, noi andiamo sempre a controllare come si svolge il tutto. Che poi ma ci vediamo che controllare anche su Crocetta, però non siamo ipocriti su questo. Lei o i suoi collaboratori, come altri ovviamente, andate a vedere per la partita, ma non possiamo non tenere conto di quello che sta svolgendo anche come funzionalità dello stadio. Ma quale funzionalità dello stadio? Andate quando a divertirvi a fare tifo per il Napoli. Quello... Scusi, quando poi a un certo punto però qualcuno mi dirà che si è eliminata la tribuna, e ben venga, si elimina la tribuna. Tra l'altro, lo stadio è ridotto, come dice il presidente del Napoli, a un cesso, cioè è qualche responsabilità il comune ce l'avrà, dunque anche voi, o no? Guardi, è come se lei mi dicesse qual è la colpa di tutte le buche che stanno nelle... è che non ci sono i fondi per fare delle cose. Sì. Due possibilità, non li hanno fatti perché non lo volevano fare, o perché non c'erano i fondi. Perché si sono magnati i soldi in un altro modo. La colpa di Roma è solamente di una cosa, che ha mandato i soldi a Milano, ha mandato i soldi e alla capitale e non certamente a Napoli. Noi abbiamo risanato il nostro bilancio. Benissimo, siamo arrivati a una conclusione. La colpa dello stadio è del fatto che Roma non ci ha dato i soldi. E dunque De Laurentiis è un mentitore, siccome l'ha detto il presidente del Napoli prima di me, è un mentitore o no? Quindi che c'erano dei fondi che non sono stati utilizzati. Ma a questo punto, altro che titoli, i fondi di Toloni che può utilizzare anche lei, verità. Ha mentito allora. Cioè, ma sicuramente non ci sono mai stati dei fondi che il Comune di Napoli non ha utilizzato e... mettendolo in condizioni lo non avevamo i soldi, non avevamo i soldi per ecco fare. Questo mi sembra molto più corretto. Va bene, grazie avvocato, arrivederci. Stia bene. A me fa impazzire quando uno dice sono andato allo stadio io e i miei collaboratori per fare delle ispezioni. Ma che cazzo dite? Siete andati allo stadio per fare il tifo per il Napoli e adesso, nonostante questo casino, i biglietti ve li siete tenuti. Ah, Elton, Torino, vai, Elton. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, Elton. Ciao, Elton John. Volevo parlare di quello lì che ha ucciso perché Leone. Perché ti chiami Elton, amico mio? Perché ti chiami Elton? Perché è bel nome, è particolare, capito? Ho capito, particolare, però perché uno in Italia, sei io italiano? Io sono dall'altra sponda, quell'Elton là, col bambù. Cioè, che sei? Non ho capito, sei etero? Certo, sempre, tutta la vita. Vabbè, adesso non mai dire anche mai. Ho amici gay, cioè non ho tanti amici lo dico gay. Ma mai dire mai però, mai dire mai. No, ma Cruciani, a me mi piace la figa con la depilata, hai capito? Pure. Perché pure quando lo lecchi non ti rimane niente in bocca, hai capito? Questo è un elemento. Beh, diciamo, io mi lascio alle vostre conversazioni. È un elemento di importanza questo qua. Cruciani, no. La trasmissione non è ancora finita. Hai no, non c'è nessuna conversazione, sta dicendo una cosa di sua spontanea volontà. Vai, Elton, dimmi. Ascolta, ma hai provato una figa depilata? Sì, certo. Che ha un bel sapore, cioè ti fa morire ed è godi come un matto. Ma guarda, preferisco l'altra, però va bene lo stesso, perché quando capita, non è che Cruciani, quando capita. E rischi di morire con i peli in bocca. No, Elton, non esageriamo, non è così. Dai, su, dai. Sì, a parte gli scherzi. Ascolta, io volevo parlare di quello lì che ha ucciso Leone. Dimmi. Quello lì è una bestia, secondo me. Perché? Perché come fai andare a uccidere un leone, una cosa che è stupenda e meravigliosa, hai capito? Perché esistono dei paesi in cui la caccia al leone, siccome i leoni non si estinguono, siccome i leoni non si estinguono, anzi, spesso cacciarli può favorire la, no, la specie. Guadagnano questi paesi migliaia e migliaia di euro con la caccia al leone e per me va benissimo, no? Bene, bene. Capito, poi se eliminano la caccia e proibiscono la caccia non faccio una battaglia a favore della caccia, Sì, ma se vuoi uccidere vai a uccidere i rati, i topi, anche i topi Ma infatti perché se ci sarà la caccia al topo va bene la caccia al topo, perché? Perché non è andato là ma è andato dal leone, poi in Africa c'è i suedesi che ho letto un paio di mesi fa, che vanno a uccidere anche gli africani, cioè pagano tot soldi, infatti lui inizia a nascondere, questi qua li corrono dietro fino a che lo uccidono. Vabbè, insomma, che vuoi dire? Io non ho capito, cosa vuoi dire? Che ti fa schifo quello che ha sparato al leone? Vabbè. Se lui si sentiva così forte, perché non è andato a combattersi col leone senza il fucile? Lui col coltello e il leone. Lui col coltello e il leone, ma perché probabilmente crepava, ma perché deve andare col coltello se uno c'ha il fucile? Allora che cazzo va a uccidere il leone? Perché è un coglione? Perché è un coglione, perché prova l'adrenalina della caccia. L'adrenalina. Si trova anche ad andare a scopare. Quello magari scopa e poi va anche a caccia. Sì, va a prendere nel culo quella lì. Io spero che non menano il brutto quel personaggio lì. No, adesso tu stai facendo istigazione, già ha subito minacce e cose, tu stai istigando le persone a picchiare quel veterinario. Merita uno che uccide un animale così. Cosa merita? Merita due schiaffi, merita. Due schiaffi. Roberto, Reggio Emilia, per concludere, vai Roberto, vai. Ciao Cruciani, ciao, buonasera. Allora? Io volevo parlare delle vegane. Dimmi. Oggi ho litigato con tre vegane al ristorante. Perché? Perché io stavo ordinato del cotechino, siccome è la stagione che andiamo verso la stagione del cotechino, sì. E loro facevano delle battute sarcastiche qui e là, e arroganti anche, dicevano guarda che non va bene mangiare la carne qui e là. Ma è un racconto straordinario, me lo fai domani, ma me lo fai bene domani, mi devi raccontare questo incontro con i vegani al ristorante che protestavano e ti rompevano i coglioni. Chiudo con un aforisma, piccolo piccolo, c'è cinismo anche nell'altruismo. Ciao, domani. Ma come ti piace parlare di sesso a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io lo vedo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Le donne fuori dai coglioni. Radio 24. La passione si sente.